SQL, guarda se è a 1. Sì, squelci 1. Cazzo, squelci 1. No, ma ti guarda, non ritivi, non ci compresi. A me da 5 sei passato a 7, quindi l'antenna va bene, il segnale è aumentato. Allora, quando schiaccio io, quando ragiono in alto, ti cedo un passaggio a te e poi non ti cedo più. Perché schiacci quello in alto? Quello non era il PTT. Quello in alto non so manco che cos'è quell'arancione, io stavo schiacciando quello nero stamattina, quando l'ho provato. Allora, Classi, io schiaccio fisso quello arancione, sopra, piccolino, giù della portante, mi dà la sirena, capito? Ah, ho capito, c'è qualcosa inserito comunque, perché è impossibile, se io ti ricevo il segnale 7 e tu non mi ricevi, e c'è qualcosa che non va, ma non è l'antenna. Ora non lo so, no, se non te l'hai neanche sentito, c'è qualcosa che io non lo conosco, sto cavolo di coso. No, non lo so. Io c'ho nel monitor comunque lì, possiamo anche rimanere qua, e il monitor lì, però se tu non mi senti quando io parlo, cazzo, con tutta la potenza, c'è qualcosa che non va, che cosa è successo magari in macchina involontariamente, io non lo conosco neanche con la radio. Neanche la conosco quella. C'è qualcosa che non va, senz'altro, involontariamente ho toccato qualche cosa, come l'ho messo, non lo so, qualche cazzino. Qualcosa in on hai messo, perché era tutto in off. Quando io sono entrato nel menu a controllare la potenza, era tutto in off. Quasi tutto in off, non mi ricordo cosa c'era in on. Se non hai chiuso qualcosa, Adesso controllo il menu e metto tutto in off, dai. Guarda a vedere se c'è qualcosa in on. Ma che esce? Cosa? La modulazione esce. Ma c'è qualcosa nel ricevitore, non sta ricevendo. Cioè, lui da 5 è passato a 7, quindi l'antenna va benissimo. Però se non riceve a me, non riceve manca a te. Non so cosa, è. E cosa ne so? Prova. Io l'ho sentito andare a chiedere a voi. Ma neanche a Manuele senti. Neanche a Manuele. Io ho detto 29 senti. È qualcosa chiuso, accetto lì. Perché è impossibile. Io ti ascolto Santiago 7. Dai, fammi chiedere sul menu a vedere. Ascolta, quando io faccio sul menu, poi per andare avanti oltre lo squecci, cosa devo toccare? Guarda, ci sono due freccette. Una in alto e una in basso. Una va avanti e una va indietro. Ah, ho capito. Ok, adesso controllo, dai. Non lo so se c'è lo split, parla da una parte e riceve dall'altra, non la conosco quella radio. A me mi serve proprio così, sta parlando da una parte e riceve dall'altra. Vuol dire che è inserito lo split, guarda dove c'è scritto split, sei non, toglielo, mettilo in off. Allora io c'ho, aspetta, ti ho cancellato. E io? Nello step c'ho ok. Cosa? Step ok. Set ok. Va bene così. Sì, guarda, vai dove c'è split. Anzi, quando schiacci la portante, guarda se cambia di frequenza in ricezione. Niente, sempre PMR 7, da lì non si sposta. Che strano, aspetta, fammi controllare, dai. Guarda comunque, arriva dove c'è scritto split, e guarda sei in on, toglilo, mettilo in off. Buonasera. Mi senti qua? Oh, io ti sento bene. Adesso sto uscendo, Tony. Sì, a Tony. Oh, Gio Marino. Dimmi. Ma in che canale siamo? Sempre il solito? Non ho capito. 446081. Ma mi intendi, ok? Io sì, Gio Marino. No, ma lui non mi sente. Aspetta, sta chiamando a me, dimmi, Tony. Come me non li sento gli altri io, né a Claudio né a Manuele. Io sento a tutti, Io sento a tutti. Tu vai bene, Tony? Niente di strano che ho toccato qualcosa, a te ti sento e a Manuele no. Non lo senti a Manuele, è strano, Manuele. E io sento a lui, non sento a me, né a me né a Claudio sente. Aspetta. Strano, ma tu a Claudio lo senti bene, Emanuele? Io sì, a Claudio. Io ti sento bene ugualmente, strano, eh. Questa frequenza è balorda, È una frequenza balorda il PMR, purtroppo, succedono anche queste cose. Angelo Mali, tu sei a fondo scala, lui mi arriva a Santiago 7 a me. Arriva quanto Emanuele, cazzo. Boh, non ci compreso, però a me Emanuele non si intendi. Se prima dalla macchina sentivamo tutto, e arrivi da casa non intendi più nulla, che cosa si striscia? Boh, io sono già affacciata alla finestra adesso, a parte fuori, così che ti sento fortissimo, e anche a Torino sento bene. Il problema è che lui a te ti sente, non sente né a me né a Emanuele, mentre stamattina ci sentivamo benissimo. Infatti, strano, strano proprio, Molto. Tante ne abbiamo spostata di un metro noi, non è che abbiamo fatto assai cose. Abbiamo messo il tubo più alto, abbiamo spostata di un metro. Mi balzano a me, e qua ha aumentato lui, da 5 è passato a 7, quindi l'antenna va bene, anche da te ma non è aumentato. Io lo sento benissimo, e dove durano che non intenda a noi? Non lo so, cosa vuoi ti dire, io non capisco questa cosa, perché qua il segnale è aumentato. Ha toccato qualcosa lui, non si preoccupare, lo squelce e roba del genere. Non vende mai con la frequenza. C'è che a uno lo squelce, Antonè, quindi va bene. No, perché se da zero lo squelce, da uno, a zero. A te non mi senti, Antonè? Io sì. Ma allora, come mai, gatto, che non ti senti? Se non intende manca Claudio, mica è colpa mia, è lui che ha problemi. Senz'altro c'ha problemi con l'apparecchio, Io ti sento, Giovanni, ti sento bene. Signora, no, vado di 5 con la direttiva, figurati. Pompo, tutto gonfio, sì. Manuè. Ehi, Tony. Già si gonfia. Tu arrivi bene anche a me, Magari Santiago è basso, però la radio è buona. Sono con la direttiva, figurati, sempre quella. Non l'ho mai cambiata. Tony. Eia. Ma strano proprio, lo dice la Manuele, cazzo, proprio una cosa strana, Io a te ti sento bene, Giovanni. Anche io ci sento perfetto, cazzo. Però è strana quella radio che non senti a Claudio e a Manuele, proprio strano, Allora, a volte lo sento quando metto il menù, che vado a camminare più piano piano, e a girare su e lo sento anche Claudio. Poi quando ritorno al normale, su 7, sento solo te, gli altri non li sento più. No, allora è spostato di frequenza, Tony, c'è qualcosa che non sta funzionando, è impossibile. Sì, sicuramente è spostato di frequenza. Non è che per PMR 7, la frequenza bisogna avere dove è settata. Qualcosa è successo. Da quando abbiamo messo in macchina è successo qualcosa. Ma dovrebbe essere sulla frequenza 4.0.81 e 25, io sono numero 25. E Tony, guarda se riesce a metterci il numero 25 sulla finale. Ok, adesso ci provo. Prova, veramente, è possibile. Se io ti sento, cazzo, perfetto, ma grazie, riceve solo a te e deve ricevere anche a Manuele, che siete uguali, vicini. Manuele, il numero 25 c'hai tu alla finale o no? Io? Ma io? Sì. 446.081. E là poi c'è un numero 25 e sul portatorino mescolano tutti così, perché se io metto un altro numero, se c'è un altro numero è fuori frequenza. Giovanni, questa è la frequenza giusta, 446.081.00, non ha i numeri. No, stai sbagliando, è il punto 25, non 081, punto 25. Il 25 Hz non succede niente, alcune radio ti danno il 25 Hz, altre no, capito? Non succede, anch'io sono a 081 decimale 00 col veicolare, non succede niente, non sei fuori. Stiamo parlando di Hz, non di kilohertz, di Hz, non succede niente. proprio a quella strada e vediamo un po', se trova il numero 25 sulla finale, a vedere un po', tutto a provare, no? E beh, non ci arrivo 25 qua, non ci riesco. Prova, prova, prova Giovanni, ma non succede niente, il mio è 446-081-0. Anche se metto a 25, non cambia niente, non sei fuori frequenza, perché sono 25 Hz, capito? Non 2 kHz e mezzo. Se fosse 2 kHz e mezzo, allora sì, ma 25 Hz non succede niente. Boh, se avessi di cacca. È proprio una cosa strana, Certo, e lui è abbastanza in alto, per cui dovrebbe arrivare benissimo. Mi arriva Santiago 7 a me, prima arrivava Santiago 5, abbiamo sollevato l'antenna e boh, e arriva 7, quindi il segnale è aumentato, ma non mi riceve più a me, non ci compreso cosa è successo. E qualcosa c'è allora qua, se prima gatta andava bene, gatta, qualcosa c'è. Ma tu mi senti a me, Claudio? Ma stai scherzando, arrivi più di 7 tu. Mi senti. E che cosa mi intendi, boh? Il segnale è sempre quello, Manuele, non cambia niente. Da 5 a 7, infatti io quello volevo vedere. Però adesso non riceve a me e a te, riceve solo a Giovaria. Non lo so, Torino, sì. Torino, a me non mi intendi. Giovanni, chiamalo tu. A me mi intendi. A te, Torino. Ciao, giù. Abbiamo un problema, Abbiamo sollevato l'antenna e Tonino mi ha aumentato di segnale, però non ricevi più. Non riceve né a me né a Manuele, cara. Solo a cosa riceve? A Gio Maria. Tonino, pone da piombo. Ciao Claudio, ciao Gio Maria. E anche Manuele. Mia, ciao Claudio, buonasera. Giulio, buonasera. Tu lo senti a Tonino, giù? Ancora non ho sentito, provo a parlare Torino, vediamo un po' se ti ascolto. Un po' strano, che è una cosa che non ho mai visto. Cioè, avevamo aumentato di segnale e abbiamo messo la ricezione, poi sì. Allora la bassa proprio. Questo mi ha esaurita proprio questa frequenza, ma è strano, ha toccato lui qualcosa nel ricevitore, boh, non lo so cosa può essere successo. Perché non è che sono i finali bruciati, si intende a Gio Maria a fondo scala e allora si intendi? Ascolta cosa si può fare, Ocla, dilli di mettere a Gio Maria, dilli di mettere torna l'antennino che c'aveva in macchina, a vedere, una prova. Tu prova a diglielo a vedere. E a me non mi intendi, Gio Maria. Ma cosa sta usando? L'antenna esterna sta usando? E allora, abbiamo sollevato l'antenna e ha aumentato di segnale e ha perso la ricezione. Con me e con Manuele. Dove sei tu? Guarda che ci sono certi portatili che non accettano l'antenna esterna, Sono fatta apposta, certi portatili sono così. Per cui, ne ho uno io anche così. Se metto l'antenna sua va benissimo, se metto è proprio un'altra antenna non va più. Ma lui c'è la radio uguale alla tua, non è che già l'antenna esterna ce l'aveva, se l'abbiamo sollevata è aumentato. Allora vuol dire che è caduto di terra e sei fasciato come te lo mio. Ciao Marie, regalami di uno nuovo a Tonino. Carità, come te se avevo i portatili miei funziona bene. Tonino, mi senti? Tonino. Adesso ho sentito a Tonino io. No, questo è Gio Maria. Giù a me senti? Sì, ti sento benissimo, Gio Maria, benissimo ti sento. No, Tonino non risponde. Tonino, dalla Catria ne sei caduto. Mi assento un attimo. Va bene, Gio Maria. Però è strano veramente questa frequenza, Ocla. Ma lo sappiamo che è così, no? Mi pare che non avvio. Mi sembra sano veramente. Ma tu come mi senti oggi, Manuel? Bene mi senti? E tu sei 7-8, la radio 5. Perché adesso la batteria è carica, ieri non era molto carica, era quasi completamente scarica, perché era il funzionante ieri proprio per miracolo, perché la batteria era completamente giù. Ma non era a casa ieri, se non ti sentivo non era a casa, era in macchina con Tonino col portatile. Adesso sono a casa. Ho capito. Vabbè, dai. Però strano, Strano perché da Città Mercato mi avresti dovuto sentire tranquillamente. Perché io ti sentivo. Ecco, ad esempio. Capita, io di te, tu, io ti sento e tu a me non mi senti. Strano. Infatti, è strano veramente. Tu come mi ascolti lì in quella zona, Giulio? Benissimo, ti ascolto, benissimo, Radio 5. Mi sembra strano che non ci sente Tonino, né a me né a Claudio, intendi? Tonino, l'hai fasciato, chi sporta Tirino? Tonino, pone da piombo. Insomma, una cosa allucinante, ma come si fa? Perché di segnale è aumentato qua, Giulio? Arrivava a 5 prima, adesso è 7 di segnale. Però non sente più né a me né a Emanuele, sente solo a Gio Maria. Roba da matti, cioè io sto usando una radio e non sto usando un portatile. Il traug. Ma ci sa, l'UHF è una frequenza molto, ma molto strana. Purtroppo è così. Comunque, ripeto, c'è un tipo di portatilino, secondo che portatile è, se ci metti l'antenna esterna non funziona. Io lo so perché ne ho un altro, ne ho. Metto lì l'antennino su e funziona benissimo. Come questo, come sto usando adesso. Se invece ci metto l'antenna esterna, perché io ho l'antenna del ricevitore anche, no? Che alle volte, adesso voglio provare con l'antenna del ricevitore a vedere come funziona. Questo che sto usando adesso funziona con l'antenna esterna, quell'altro invece non funziona. Eppure quello là è anche più nuovo di questo. Per dire, no, è possibile. Non lo so, Claudio. Non ho parole. Telefono e dille di controllare il connettore, si è avvittato bene, perché l'abbiamo svittato, l'abbiamo riavvittato, si è avvittato bene, La gente che prova a chiamare. Io ho il telefono scarico, sta caricando. Adesso sta prendendo l'antenna della macchina e prova con quell'antenna della macchina. Niente di strano, c'ha problemi l'antenna, quella esterna, Cla. Cos'è, Emanuele? Ehi, che lo so che sono al telefono con Tonino. Gli ho detto di prendere l'antenna della macchina, quella che stavamo usando. Niente di strano che c'ha problemi l'antenna della, quella fissa. Allora che prenda l'antenna della macchina, la metta sopra la capotta, esca fuori e provi. Provala sulla cappotta, mettoni. Mi senti? Sì, qua ti sento, mi senti? Ehi, a Muglia. Ecco, l'antennina sto usando. E allora c'ha problemi l'antenna. E cosa c'ha l'antenna? Cosa può avere? Tony, mi senti a me? A bomba, Claudio. Cosa gli è successo al discone? Non abbiamo fatto nulla, mi sono staccato il PL. E come fa a staccarsi il PL? Cazzo, non l'avete avvitato il PL, scusa. Come l'ho avvitato? Io sono la prima volta, no? Allora il connettore dell'antenna grande che allacci alla radio, controllalo. Si è attaccato bene. Cavolo, si è attaccato bene. A voglia. Riesci a controllare questo? Aspetta. Cazzo, mi arriva in di nube con il cantennino. Ma stai scherzando, Emanuele? Quell'antenna l'ho provata io in macchina tantissime volte, una canonata. Sta arrivando con lo stesso segnale della grande qua. Cazzo, figurati. Mi sta arrivando bene qua con quell'antenna. Se te l'avevo letto, non ce l'avevo dubbi. Allora è successo qualcosa al discone. Ma lei si è caccato che con l'UBL, no? No, se sente, cioè se trasmette, il segnale c'è, la ricezione, È un mistero, guarda, Questo c'è un mistero, Revendi, non mattessi i segnali con chi c'è meno linda che con quella grande. Tonino, mi senti a me? Io me ne sono subito accorto, evidentemente era l'antenna, perché gli ho detto cambia l'antenna a vedere, a provare quella della macchina, e mi invece scendiveva. Chi è che ha detto mi ascolti a me? Giulio, prova giù. Ok, Tonino, mi senti? Sì, mezzo al quadrimmo e già ti ascolto. No, sono allucinante di Sant'Enna. Santiago 7 stai arrivando, Tonino, con l'antenna piccola. Com'è con l'antenna grande non funziona? Eppure i portatili non c'è niente, tranquillo, perché io ho messo l'antennino e sto già parlando con voi, vi ascolto. Sì, che ti ha detto che ti sente, già ti sente Giulio. Sì, ma non lo capisco neanche io, non abbiamo fatto niente, l'abbiamo spostata e il PL è attaccato, non è che... per me non abbiamo fatto nulla, non è successo niente. Proviamo a riscendergliela di nuovo a vedere cosa è successo. Non lo so. E poi ci facciamo una spaventata l'antenna che magari vi è sfuggito, o che non avete controllato bene. È un discone, Giulio, è un discone, capito? È un discone per le V e per le U. L'abbiamo solo spostato perché era troppo attaccato all'antenna del baracchino. L'abbiamo spostata di un metro. Ho capito. Il discone dovrebbe funzionare per parecchie radio anche, perché se è quello che va sino ai 1300 MHz dovrebbe funzionare anche quello. Esatto, è VHF 1200, arriva sino a 1300, quindi, ma funzionava bene, non abbiamo fatto niente, capito? Dove l'hai messa l'antenna della macchina? Sopra il cappotto, Tony? Non c'è sopra il cappotto, ve la dentro casa, Ocla. Tu davanti alla finestra c'ho il cavadaletto. Ma fai così, questo è da giù di tu io. Dico, certi portati lini, con l'antenna non funziona, con l'antenna esterna non funziona. Ne ho uno io qua, così. E te lo so cosa c'è, io ne ho uno. Portatilino. Con il suo gommino è una meraviglia, funziona benissimo, funziona. Se provo a mettere l'antenna esterna non funziona più. Dunque, è così. Evidentemente il segnale che riceve in antenna, l'antenna esterna va in saturazione, magari la media frequenza e non lo può uscire. Ecco qual è. Magari la portante la manda, però non manda la modulazione. No, Giulio, esce bene, sia di radio che di segnale lui, capito? In trasmissione, è la ricezione che non sente, ma non sente né a me, né a te, né a Manuele, sente solo a Gio Maria. Oh, Tori, se mi stai ascoltando, quell'antenna prendila, mettila sopra la cappotta della macchina e modula da fuori a vedere se cambia ancora il segnale. Messo le mutande, cazzo. Sì, cazzo, vabbè. Tu immaginati che se ce l'hai attaccata alla finestra, stai arrivando con lo stesso segnale di quella grande. Pensa un po', con l'antennino. Funziona questa antenna, se te l'hai giunto funziona, ma non avevo dubbi. Però non riesco a capire cosa è successo al discone. Ma noi non abbiamo fatto niente. No, abbiamo fatto un danno, l'abbiamo spostata e basta. Aspetti, prova a mettere l'antenna a terra a vedere. Cazzo che strano, beh. Allucinante. Controllato vuole, là. Vuole controllato di nuovo. Probabilmente vi è sfuggito qualcosina che non ci avete pensato. Sta dicendo non avete fatto niente. Guarda, se che spostandola magari ci è successo qualcosina che ti pregiudica appunto la ricezione. Domani piano piano, con tanta pazienza, se ne fa e non se ne parla più. Mamma mia, ragazzi, tu l'hanno bugato tutto, mi sembra molto strano a me. Mi sembra molto strano. Mi senti, Claudio? Claudio. Evanda. Sì, Tony, mi senti? Però senti andare lui. Meglio stare qua che stare là. Claudio, mi senti? Ehi, che ti sento. Tonino, ci sei? Ehi, Anton, aspetta, ci abbiamo un problema con Tonino. Allora, io, Manuel, a Torino lo sento, con lo stesso segnale dell'altra antenna, però lui non sente. Allora, Claudio. Sì. Allora, c'è problema col PL. Come metto il piede, poco a poco vi sento, e poi come vado a vitare... Tonino, io ti sento, però se tu non mi intendi, cosa vuoi che ti dica? Aspettate un secondo. Dimmi, cosa hai detto, Tony? Allora, ho messo l'antenna esterna. Come l'ho messa vi ho sentito, come vado a evitare PL sparite? Il PL in corto c'è, Manuel. Come va a evitare la ghiera sparisce il segnale. C'è il PL in corto. Però bisogna vedere, Tony, se è il PL di giù o il PL di su. Quello di su mi sembra strano. Può darsi che sia il PL di giù. Capito? Il PL di giù. Quindi taglia il PL di giù, quello che è attaccato al portatile, e rifallo. Ma se ha funzionato sempre, che te non ha giubato nulla. Ma noi, ma ieri con quel portatile di Tonino mi stavi ricevendo. Non ho mai fatto niente col PL che c'è qua sotto, all'interno di casa. Ho capito, però muovendolo, siccome noi l'abbiamo staccato per togliere il connettore e attaccarlo all'altra antenna, può darsi che... Sì, ha sfilacciato qualcosa e stia toccando, e stia toccando la calza, perché è quello che sta succedendo, che stia toccando la calza al centrale. Se tu rifai quello lì e l'antenna riprende a funzionare, è quello. Altrimenti bisogna abbassare l'antenna perché è andato in corto quello di sopra, come abbiamo tirato il cavo. E allora, senza ombra di dubbio, scommetto al 1000 per 1000 che l'antenna, il piede di sopra dell'antenna. Va bene. Vai giù che sta parlando Tonino. Cosa hai detto, Tonì? Allora, ho detto, scommetto al 1000 per 1000 che l'antenna è il piede che va nell'antenna. E allora bisogna abbassarla e non succede niente, ci vuole 5 minuti. Abbassarla e vedere staccare il PL, capito? E rifare il PL, quel PL. Non io mi biasi assai, eh. Comunque, se andava bene l'abbiamo lasciato, però evidentemente come abbiamo fatto il foro per far passare il cavo, l'abbiamo mossa a tricche e ballacche, è andato in corto, va? Va bene. E allora è quello lì, Tony. Non c'ha niente la radio, perché come vedi usa quella piccolina. E capo, infatti sto usando quella piccolina, grazie a Dio mi ascolti lo stesso. E ce l'ho dentro casa. No, io ti ascolto con lo stesso segnale di quella grande. Pensa un po'. Manuel si deve essere allontanato. Ma l'hai attaccata alla gratta? La base magnetica fa le fare massami, non è che vedrai l'uranio, no? No, ce l'ho sul marmo. Ma sul marmo non va bene. Sul marmo non va bene, deve fare massa. Aspetta. Che cazzo, sul marmo me l'attacchi, Tony? Non mi dire queste cose a me. O le metti una piastra di ferro sul marmo, oppure la devi attaccare in un punto dove ci sia calamita, che faccia massa. Figura di due, attaccata così in Nata Romai, Maro e scende, Santiago 7. Guarda adesso, come mi senti? Molto meglio. Adesso è attaccato a un ricevitore che è in metallo, l'ho messo perché si è attaccata la calamita. Ma non ti fidare però, perché così ti crea stazionari, eh. Non ti fidare molto. Va. O le metti un barilotto e te la porti fuori e la metti fuori dove l'abbiamo provata stamattina, mi è attaccata a quel tubo che abbiamo lasciato. Capito? Sì, aspetta. No, non ti sento più. Mi senti? Mi senti? No, basso adesso. L'ho toccata all'inferriata, l'ho toccata, gà. No, non sta andando bene all'inferriata perché è in discesa, vuole dritta. Adesso, mi aspetta. Metti la rovera, però mettila nella finestra, in piano, nel marmo, mettili un coso di ferro sotto. Ascolta me, così. Mamma mia, come sto. Come mi senti? Sento più basso. Ti sento più basso, metti la rovera. Così mi senti meglio. E si conferma. Va bene così, Cla. Eia. La lascio così, zootiglia. Il piede è andato in corto. Giulio, tu non lo senti più, no? Giulio. Così come mi ascolti? Bene. Sul termosifone. Va bene, lascia lì, l'importante è ci sia massa. Più massa di quella. Però Manuele è pallido. Manuele. Cla, da. Vediamo, da. Bisogna scendere di nuovo la grande, Tony. E rifare il PL, dai. Io adesso vi lascio, ci aggiorniamo dopo perché devo liberare i cani, sennò è un casino in ogga, dai. Sono già le 8, ragazzi. Ci aggiorniamo dopo, ok? D'accordo, ci sentiamo dopo. Ok, ciao Cla, ci sentiamo. Ciao, dopo, ciao. Ciao, a dopo. Ciao, ciao. Ciucucciù, ciucucciù, ciucucciù. Ciucucciù. Tonino.